calcio, dice addio Carlo Petrini, il calciatore che denunciò il doping. Buongiorno alla redazione, ancora buona giornata da Anna Migliorati. È tornato dunque in Italia come promesso. Questa mattina Walter Lavitola, l'ex direttore dell'Avanti latitante in Sud America, e per lui erano già pronte altre accuse. Accuse intanto anche per il presidente della Regione Lombardia Roberto Formigoni, per il quale indiscrezioni di stampa parlano di un viaggio pagato da Pierangelo Daccò, arrestato nell'inchiesta sul crack al San Raffaele. E allora cominciamo da Lavitola, poi sentiremo anche che succede a Milano. Cominciamo con Andrea Viali. Sì, buongiorno, si trova già nel carcere napoletano di Poggio Reale Walter Lavitola, rientrato dall'Argentina per costituirsi dopo mesi di latitanza. Questa mattina all'aeroporto romano di Fiumicino ha trovato ad attenderlo polizia e guardia di finanza che gli hanno contestato nuove accuse, oltre a quelle note sui festini, lo ricordiamo, a casa di Silvio Berlusconi. L'ex direttore dell'Avanti ora è indagato anche per il reato di corruzione internazionale. Secondo la Procura di Napoli avrebbe pagato tangenti al presidente e al ministro della giustizia di Panama per ottenere un appalto per la realizzazione di alcuni penitenziari. Ma non è tutto, perché Lavitola è accusato anche di associazione a delinquere, false fatture, riciclaggio e truffa in un altro filone dell'inchiesta che riguarda i finanziamenti pubblici ottenuti dall'Avanti. Dal 1997 il giornale avrebbe incassato oltre 23 milioni di euro sotto forma di contributi all'editoria, soldi finiti in gran parte all'estero, sostengono gli inquirenti. In questo filone gli indagati sono 19, fra di loro c'è anche il senatore del PDL Francesco De Gregorio, per il quale sono stati chiesti gli arresti domiciliari, una richiesta sulla quale ora si dovrà pronunciare il Senato. Mi difenderò con le unghie e con i denti, è stato il primo commento di De Gregorio, che, lo ricordiamo, è stato anche direttore dell'Avanti. Per ora è tutto. Grazie. Dicevamo, ci sono anche invece in Lombardia le accuse per Roberto Formigoni, che poco fa ha parlato e si è difeso così. Sentiamolo al microfono di Giovanni Capuano. Innanzitutto che verificherò se quel viaggio si è veramente svolto. In secondo luogo domando, ma nessuno di voi ha mai fatto vacanze di gruppo? Quando si fanno vacanze di gruppo cosa succede? Uno si fa carico dei biglietti perché conosce l'agenzia, l'altro si fa carico del pagamento dell'albergo, il terzo paga le escursioni, il quarto i ristoranti, poi a fine vacanza ci si trova insieme, si tirano i conti ed eventualmente si conguaglia. Quindi non c'è nessuna irregolarità, soprattutto io non ho mai ricevuto alcuna regalia da nessuno. Questo sia molto chiaro. Io non ho mai ricevuto un euro o nessuna regalia da nessuno. E chiariamo anche che nella vicenda Maugeri, nella vicenda San Raffaele, non è stato sottratto un solo euro pubblico, né alla regione né allo Stato. Così dunque la difesa di Roberto Formigoni, ma oggi in Regione Lombardia potrebbe arrivare un rimpasto dopo le inchieste che hanno coinvolto diversi consiglieri della maggioranza di PDL e Lega. Poco fa sono arrivate anche le dimissioni dell'assessore lombardo allo sport, la leghista Monica Rizzi, considerata vicina a Renzo Bossi. Anche sull'onda di queste notizie, oltre che sulle indagini sull'uso dei fondi per il finanziamento dei partiti, cala anche l'affezione alla politica da parte degli italiani. Il 18% dichiara oggi che non vota e non voterà più. Questo solo uno dei dati emersi da un sondaggio SFG sulle intenzioni di voto degli italiani. Allora lo ha raccontato a Cristina Carpinelli il presidente Roberto Weber. Ci sono due elementi, se vuole, di effettiva novità. Una piccola ripresa, consolidamento ripresa del PDL, che va, sale al 25%, e un elemento che secondo noi è consolidato e ce l'abbiamo da parecchio tempo, che è quello di 5 Stelle Grillo. No, poi cosa c'è di nuovo? Di nuovo c'è che sì, questo è l'elemento nuovo, anche questo relativo, hanno segnalato in altri, siamo quasi ormai al 50%, il 49.9, che ha difficoltà a collocarsi, perché c'è un 30 che dice sono indeciso, non so per chi votare o non dico per chi voterò, e c'è invece un cospicuo 18.5, mi pare, o 18.1, che dice comunque mi asterrò. Ecco, questa astensione così alta dichiarata nei sondaggi non c'era stata mai. E allora lasciamo dunque i sondaggi per vedere invece quello che succede in Parlamento. In attesa nel pomeriggio del Consiglio dei Ministri per parlare di riforma fiscale, arrivano novità per l'IMU, la tassa sulla casa. Andiamo alla Camera da Vincenzo Miglietta. Sì, buongiorno. L'imposta per l'anno 2012 dovuta per l'abitazione principale sarà rateizzata con tre distinti versamenti, 16 giugno, 16 settembre e 16 dicembre. Tutto ciò è nero su bianco in un emendamento al decreto fiscale a firma del relatore Gianfranco Conte. Nella prima e nella seconda rata si pagherà per ciascuna della tranche un terzo dell'imposta calcolata applicando l'aliquota di base e le detrazioni previste, mentre la terza rata è a saldo con conguaglio sulle precedenti rate. Altra novità sempre relativa all'IMU, le agevolazioni sulla prima casa si applicheranno solo sull'abitazione dove il contribuente e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente, risiedono anagraficamente e si applicano per un solo immobile. Altro capitolo, la delega fiscale all'esame del Consiglio dei Ministri convocato per il pomeriggio. Il gettito conseguente alla riduzione dell'evasione confluisce in un apposito fondo strutturale destinato a finanziare sgravi fiscali. La riforma del catasto prevede una revisione periodica delle rendite, si va inoltre verso una stabilizzazione del 5 per mille, infine i tempi di attuazione della riforma il governo prevede 9 mesi. E da Roma è tutto. Grazie Vincenzo Viglietta e oggi parte un nuovo viaggio di Radio 24, il direttore Fabio Tamburini. Oggi comincia una nuova iniziativa di Radio 24. Ogni giorno, dal lunedì al giovedì, nei giornali radio di maggior ascolto, troverà spazio un appuntamento che abbiamo deciso di titolare Adesso o mai più, le emergenze del paese sommerso. E in chiusura di settimana, venerdì prossimo, una intera giornata permetterà di approfondire gli argomenti trattati. Le emergenze sono la riforma fiscale, il taglio della spesa pubblica e la lotta alle mafie. La riforma fiscale è indispensabile per togliere ogni alibi agli evasori. Oggi le aliquote fiscali per le persone fisiche e per le imprese che pagano le tasse hanno raggiunto livelli record ben superiori alla media europea, come documentato nei mesi scorsi da una ricerca della Banca d'Italia. Sono livelli insostenibili che arrivano perfino a giustificare o quasi l'evasione fiscale. Occorre dire basta e voltare pagina. Non si può pagare di tasse fino a oltre metà del reddito. Il taglio della spesa pubblica, come giustamente ripete Radio 24 nei programmi di maggiore ascolto condotti da Oscar Giannino e Sebastiano Barisoni, va considerata un'altra priorità assoluta, esattamente come la lotta contro le mafie. Almeno 4 regioni del sud sfuggono al controllo dello Stato e le mafie, come hanno confermato le inchieste della magistratura, hanno infiltrato il centro-nord del paese. Anche in questo caso occorrono interventi drastici e coraggiosi. Queste sono le emergenze del paese sommerso e questi sono gli interventi a cui deve mettere mano il governo Monti. Adesso o mai più. Adesso o mai più. Le emergenze di un paese sommerso. 727 miliardi di euro. Sul malato Italia pesa una spesa pubblica che è quasi la metà della crescita. Su un prodotto interno lordo di circa 1.600 miliardi di euro, per mandare avanti il carrozzone pubblico infatti ne spendiamo il 50%. Non solo sanità, giustizia, trasporti, scuola, ma anche burocrazia, cancelleria, inefficienze, sprechi. Il malato è grave e il bisturi deve essere usato con efficacia e prontezza. In attesa della terapia, entro aprile ci sarà almeno la diagnosi. Il ministro per i rapporti con il Parlamento Piero Giarda presenterà il dossier sulla spending review, ossia dove si può risparmiare e come. Finora però la cura non sembra all'altezza del male. Si è parlato di tagli per circa 8 miliardi, che su 700 miliardi di spesa pubblica e oltre sono appena l'1%. Un po' come somministrare fiori di Bach a un malato terminale. All'estero il bisturi è stato usato con maggiore decisione se si pensa che, secondo un dossier sulla spending review degli altri paesi presentato al Senato, nel 2009 il Giappone ha contenuto la spesa per 32 miliardi, il 40% del totale. Lo stesso anno un'operazione chirurgica simile ha interessato l'Olanda, dove sono stati tagliati 35 miliardi di euro. E che dire del Regno Unito, dove l'obiettivo per il 2011-2015 è una sforbiciata di 97 miliardi di euro, di cui il 19% riguarda i ministeri e il 7% gli enti locali. Gli esempi ci sono, basterebbe mettersi il camice e operare. Valentina Furlanetto, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Torneremo naturalmente a parlarne. Torneremo anche alle altre notizie dall'Italia. Prima però andiamo all'estero, perché in Norvegia questa mattina si è aperto il processo contro Anders Breivik, il militante di estrema destra responsabile delle stragi di Oslo e Utøya, costate la vita a 77 persone. Lui è entrato in aula facendo il saluto romano all'indirizzo dei familiari delle vittime. Le sue parole sono state: non riconosco i tribunali norvegesi, avete ricevuto il vostro mandato dato da partiti politici che sostengono il multiculturalismo. Il processo è ancora in corso. E sono terminati nelle prime ore di questa mattina i combattimenti a Kabul. Morti tutti gli insorti, hanno reso noto le forze di sicurezza afghane. 47 morti, 36 talebani, 8 membri delle forze di sicurezza e 3 civili. Questo è il bilancio delle 20 ore consecutive di combattimenti a Kabul e in almeno 3 province afghane. Combattimenti scaturiti dall'ondata di attentati iniziati ieri nella capitale, decine di attacchi coordinati contro obiettivi afghani, primo fra tutti il Parlamento e internazionali, ambasciate, basi ISAF e hotel nel quartiere diplomatico. Combattimenti terminati questa mattina con l'annuncio dell'uccisione da parte delle forze di sicurezza afghane degli ultimi assalitori che si erano asserragliati in 2 edifici di Kabul. Fra i feriti si contano 40 membri delle forze di sicurezza e 25 civili. Il Ministero dell'Interno afghano ha anche reso noto che è stato arrestato un kamikaze ancora in movimento. A riprova del fatto che l'offensiva di primavera, rivendicata come tale dai talebani nel segno della ritorsione anti-americana, non è ancora stata del tutto soffocata. E anche dalla provincia orientale di Logar è arrivata la notizia di un militante talebano sfuggito ai rastrellamenti. Maria Luisa Pezzali, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Sarà un'autopsia d'ampio raggio quella sul corpo di Pier Mario Morosini, per sapere più cose possibili, ha spiegato il procuratore aggiunto di Pescara Cristina Todeschini. L'autopsia è in corso mentre il calcio litiga. E allora facciamo il punto con Carlo Genta. Buon pomeriggio, buongiorno a tutti. Autopsia che è in corso dalle 11.30 e a quanto pare durerà 4-5 ore. Dicevi tu giustamente, Anna, autopsia ad ampio raggio per scoprire, perché oggi siamo alla ricerca della verità dopo il dramma che ci ha colpiti sabato. Vogliamo sapere che cos'è successo a quel ragazzo, se davvero una tragica fatalità che non poteva essere evitata oppure qualcos'altro. Il procuratore Todeschini ha affiancato al medico legale, che si chiama Cristian Dovidio, che effettua l'autopsia, una tossicologa, la dottoressa Simona Martello dell'Università Cattolica di Roma, perché ha spiegato, siamo nel mondo del calcio e quindi vogliamo andare a fondo grazie ad un esame che ci dia un quadro quanto più ampio della causa del decesso. Dunque autopsia in corso e in corso anche le indagini, è stato aperto un fascicolo in maniera cautelare per omicidio colposo, ma è tutta un'ipotesi, esatto. Grazie a Carlo Genta. Alle 14 vi ricordo a tempo di sport. Solo da aggiungere una cosa, Carlo, prima di chiudere, in realtà, che oggi il calcio ha perso intanto un altro protagonista. Sì, Anna, sono giorni così, è morto Carlo Petrini dopo una lunga malattia, ex giocatore degli anni 70 di Milan, Torino e Roma, coinvolto nel calcio scommesse dell'80, diventato molto noto perché pubblicò un famoso libro shock sull'uso del doping negli anni 70. Era malato in maniera molto grave e oggi è morto Petrini. È le 13:18 minuti, le notizie di oggi di GR24. La Vitola in carcere a Napoli con nuove accuse, avrebbe pagato politici panamensi. Formigoni nel mirino per viaggi pagati dal faccendiere del San Raffaele, invece si difende, solo un viaggio. In gruppo in regione Lombardia si dimette la leghista Monica Rizzi. 3 rate per pagare l'IMU sulla prima casa, la prima a giugno, e dalla lotta all'evasione in arrivo il fondo per gli sgravi fiscali. Saluto romano ai familiari delle vittime, accuse ai giudici, così al via il processo per la strage di Oslo in Norvegia. Morosini, autopsia in corso, si indaga per omicidio colposo, dice il PM, un'indagine a vasto raggio, anche le indagini tossicologiche. Tutto questo abbiamo già parlato, riprendiamo invece con quella che ormai è un'emergenza sociale, quella di imprenditori che scelgono di togliersi la vita perché schiacciati dalla crisi. E andiamo a Vigonza da Raffaella Calandra. Sì, buongiorno. Lapidi per le aziende uccise dalla crisi, lacrime e rabbia per gli imprenditori che arrivano loro stessi a togliersi la vita. Dopo il grido d'allarme sui suicidi dovuti a ragioni economiche, nasce qui a Vigonza, nel cuore del Nord-Est, una volta locomotiva del paese e ora tra le aree più flagellate dalla crisi, con 50 suicidi in 3 anni, l'associazione dei familiari degli imprenditori che si sono tolti la vita, voluta da Filca e Adiconsum, un'associazione voluta per rompere il silenzio e l'indifferenza che uccide, spiega Laura Tamiocio, che il dramma estremo di un suicidio indotto dalla crisi l'ha vissuto sulla sua pelle. Suo padre, costruttore, infatti, si è impiccato l'anno scorso perché si sentiva responsabile, aveva già spiegato la figlia, che è ora presidente dell'associazione, verso i dipendenti che non riusciva a pagare. Un costruttore edile era anche Giovanni Schiavon e anche lui non è sopravvissuto alla baratro in cui era precipitata la sua azienda e forse non ha trovato una mano tesa che lo aiutasse, commentano dal palco di questa iniziativa, mentre la commozione fa tremare la voce della figlia Flavia, che non tace la sua rabbia per l'estremo gesto del padre che ha lasciato a noi le difficoltà, dice. E proprio per dare aiuto a queste famiglie così provate e a tutti quegli imprenditori che sono stretti nella morsa della crisi e che possono arrivare a pensare un gesto così radicale, l'associazione darà un supporto legale e di consulenza finanziaria. E per ora da Vigonza è tutto. E grazie a Raffaella Calandra, naturalmente continueremo a parlarne, a tenere i riflettori accesi anche noi di Radio 24. Intanto, proprio per parlare di sviluppo, è in corso un vertice a Palazzo Chigi in attesa che domani si riapra il capitolo lavoro. E allora sentiamo che sta succedendo a Roma. Elisabetta Fiorito. Sì, il governo punta adesso alla fase 2, quella dello sviluppo. È durato un'ora il vertice a Palazzo Chigi tra il premier Mario Monti e i ministri economici Passera, Grilli e Fornero, ed è proprio il ministro del welfare Fornero che nega qualsiasi divergenza con il ministro Passera. C'è piena sintonia nel governo, spiega Fornero, e sui temi del lavoro c'è la consapevolezza che bisogna aprire una fase per rilanciare la crescita. Si è parlato nel vertice non solo del piano per lo sviluppo ma anche della delega fiscale per il Consiglio dei Ministri convocato per oggi pomeriggio, ma è il piano per la crescita ad interessare i partiti della maggioranza. Il segretario PDL Angelino Alfano è chiaro: incontreremo il Premier per affrontare questi temi auspicando la semplificazione delle procedure di assunzione. Il timore è che un appesantimento possa determinare meno occupazione. La crescita per Alfano si può finanziare con la revisione della spesa pubblica eliminando gli sprechi. E proposte per la crescita sono anche quelle che presenterà domani il segretario PD per Luigi Bersani, al quale crea un po' di posti di lavoro e fare qualcosa per contenere la recessione. Per il momento qui da Roma è tutto, a voi studio. Grazie anche Elisabetta Fiorito. A parlare oggi è stato intanto anche un altro ministro, il ministro per la coesione territoriale Fabrizio Barca, all'Aquila per un incontro con gli studenti. La fuga di cervelli è un problema, ha detto, ma se l'Italia non riesce a crescere è giusto che i giovani vadano via. Io ho 3 figli e 2 se ne sono andati dall'Italia. Parole che faranno discutere. E allora che caratteristiche devono avere i giovani per trovare un lavoro in Italia, tanto più in questo periodo di crisi? Lo rivela la prima indagine sulla formazione dei neolaureati e le esigenze delle imprese realizzata dall'Università Yulm, Centro Marche e Fondazione CRUI. Luca Quarantino, che ha realizzato la ricerca, al microfono di Maria Piera Ceci. Quello che emerge in maniera chiara è che le imprese hanno un'elevata attesa di conoscenza sul fronte dell'inglese, dell'informatica, intesa non solo come conoscenze di base ma anche come capacità di utilizzare i nuovi media. Sul versante delle capacità, quindi di ciò che sanno concretamente fare i giovani, le attese vanno su quel pacchetto che viene convenzionalmente chiamato di soft social skills, quindi le abilità di sapersi comportare negli ambienti organizzati, il lavorare in gruppo, la comunicazione, il problem solving, la gestione delle attività. E infine, per quanto riguarda invece gli orientamenti, il modo di porsi dei giovani, le aziende hanno particolarmente a cuore l'impegno e la serietà, la accountability, quindi la responsabilità. Questo è quello che le imprese cercano, ma lo trovano anche? Allora, qui diciamo che il panorama è un po' a macchia di leopardo. I buchi più grossi riguardano, sul versante delle conoscenze, l'inglese, che rimane, nonostante il messaggio ai ragazzi credo arrivi ormai chiaro da diversi anni, rimane un buco importante. Le imprese non sono soddisfatte da questo punto di vista. L'altro grande buco riguarda tutta il saper fare, il sapersi muovere in maniera pratica. Qui i ragazzi risultano al di sotto delle aspettative delle imprese. 3 giorni dopo la sentenza che ha mandato tutti assolti per la strage di Piazza della Loggia a Brescia, un appello da GR24. Per la strage di Piazza della Loggia a Brescia, 28 maggio 74, 8 morti, 100 feriti, non vi è alcuna giustizia. L'ultimo processo non è riuscito a risolvere la responsabilità materiale e organizzativa della strage. Non è un fatto nuovo per il nostro paese. Per tutte le stragi della cosiddetta strategia della tensione, Piazza Fontana, Questura di Milano, Treno Italicus, non c'è stata giustizia. Anche per la strage alla stazione di Bologna del 2 agosto dell'80, 85 morti e 200 feriti, la giustizia, pur trovando i colpevoli, non ha scoperto i mandanti politici che stavano dietro quell'eccidio. Ma per Brescia, così come per Piazza Fontana, c'è un fatto ancora più grave. La Corte ha stabilito che le spese processuali fossero pagate dai familiari delle vittime. Per il processo per la strage di Piazza Fontana, l'allora capo dello Stato, Carlo Azeglio Ciampi, intervenne subito sostenendo le spese. Cosa aspetta l'attuale Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, a fare altrettanto? Sarebbe un atto importante e simbolico. Del resto lo Stato non è riuscito a dare una verità giudiziaria ai familiari delle vittime e ai cittadini italiani ed è dunque lo Stato che deve a questo punto pagare le spese processuali. Daniele Biacchesi, GR24, Il Sole 24 Ore. Brutte notizie per i due marò italiani in carcere in India. Il magistrato di Kollam ha esteso di altri 14 giorni la carcerazione preventiva. Gli investigatori indiani sono in possesso degli esiti della perizia sulle loro armi e, secondo le conclusioni anticipate dalla stampa locale, a uccidere i due pescatori sarebbero stati due fucili d'assalto modello Beretta in dotazione all'unità militare antipirateria. Auguri da tutto il mondo giungono in queste ore a Papa Benedetto XVI, compie oggi 85 anni e giovedì prossimo festeggerà il settennato di pontificato. E anche sulle ipotesi di possibili dimissioni in futuro, di cui molto si è parlato nei mesi scorsi, Katia Caramelli ha intervistato il cardinale Ennio Antonelli, presidente del Pontificio Consiglio della Famiglia. Innanzitutto auguri di cuore al Papa e penso che malgrado i suoi 85 anni è ancora pieno di energie mentali e spirituali, basta fare attenzione alle sue splendide omelie, lucide, profonde, organiche, coinvolgenti. Mi pare che egli sottolinei soprattutto il primato assoluto di Dio e di Cristo e che voglia una Chiesa tutta rivolta a Dio e a Cristo nell'obbedienza e nella fedeltà, coniugando insieme verità e carità, ragione e fede, solida identità e apertura al dialogo, testimonianza aperta e coraggiosa e rispetto per le altre confessioni cristiane, per le altre religioni, per le altre posizioni personali e culturali. Una personalità e un ministero estremamente significativo e necessaria in qualche modo per i nostri tempi. È innegabile che la Chiesa di Benedetto è una chiesa un po' sotto attacco. Lei che idea si è fatta? In tutti i tempi, in tutte le stagioni e fino ad oggi è stata sempre sotto attacco e questo è normale. La libertà religiosa è ancora in molti ambienti assai lontana dall'essere un fatto realmente acquisito. C'è anche nel nostro mondo occidentale una cultura ostile alla Chiesa, specialmente direi proprio la dottrina etica si considera la Chiesa nemica della libertà e della gioia di vivere. E io vi lascio con Italia in controluce da Anna Migliorati che ha curato e condotto questa edizione di GR24. Ancora buona giornata a GR24 che torna alle 14. GR24, Il Sole 24 Ore. Direttore Fabio Tamburini.